Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo il blog Guardie o Ladri sull'home page del Sole 24 Ore. Siamo alla quarta puntata che dedichiamo alla morte di Attilio Manca, una morte avvenuta il 12 febbraio del 2004 a Viterbo. Ufficialmente fu un suicidio a base di alcolici, sostanze stupefacenti, a base di tranquillanti. Una morte come tante, apparentemente archiviata dalla procura come suicidio. Attualmente però presso la procura di Viterbo è ancora in corso, diciamo così, l'indagine che deve poi portare all'ennesima archiviazione oppure all'apertura formale di un processo su questo suicidio apparente, che in realtà però la famiglia Manca spera e sa, crede essere in realtà un omicidio. Perché ci occupiamo di Attilio Manca? Perché Attilio Manca era un promettentissimo chirurgo, esperto tra i pochi in Italia di chirurgia laparoscopica, e fatto sta che Attilio Manca nell'ottobre del 2003 si reca in Francia. Si reca in Francia in quel periodo, nello stesso luogo in cui risiede il professor Attilio Manca, risiede anche un nobiluomo, tal Bernardo Provenzano. La famiglia Manca è convinta, lo abbiamo sentito ai nostri microfoni, anche attraverso la voce del suo avvocato, che è stato Attilio Manca ad operare di prostata laparoscopica Bernardo Provenzano in Francia e quella sia stata l'inizio della sua fine. Vale a dire di un suicidio apparente, in realtà un omicidio. E abbiamo sentito il fratello di Attilio Manca, Gianluca Manca, dire che probabilmente era a conoscenza di segreti, in maniera diretta o indiretta, che purtroppo si è portato per sempre nella tomba. Abbiamo sentito anche la famiglia Manca parlare di anomalie. Tra le anomalie anche un rapporto strano all'interno di quell'ospedale in cui lui lavorava. Ed è per questo che, dopo aver ascoltato ieri le voci di due esperti di diritto, oggi concludiamo questa mini inchiesta con il professor Rizzotto. Professor Rizzotto, è importantissimo sentire la sua testimonianza perché è il primario di urologia presso l'ospedale Belcolle di Viterbo, laddove il suo vice era all'epoca il professor Attilio Manca. Buongiorno e grazie, professor Rizzotto. Buongiorno. Grazie per il suo invito. Grazie a lei e grazie anche per il coraggio che ha avuto ad intervenire in una storia che sembra i più dimenticata. Nei giorni scorsi la famiglia Manca, come dire, parlava di un buon rapporto che c'era fra lei e il suo vice, Attilio Manca. È vero questo? Sì, diciamo esattamente. Attilio non era il mio vice, in quanto erano presenti in reparto due colleghi più anziani di lui, quindi il mio vice all'epoca era il dottor Fattorini, poi c'era il dottor Maurelli, e Attilio era sicuramente un giovane molto molto bravo, molto preparato, molto appassionato all'urologia, al suo lavoro. Ovviamente la domanda è d'obbligo: con lei non ha mai parlato di un possibile intervento effettuato a Bernardo Provenzano in Francia? Sinceramente no, non solo questo, ma nell'anno e mezzo che noi abbiamo avuto il piacere di avere Attilio con noi, la scomparsa di Attilio è stata per me personalmente, ma per tutto il reparto, un dolore immenso, perché è un ragazzo che si sapeva far voler bene. Ecco, ma... e quindi tutti noi eravamo molto affezionati a lui. Io da primario ero molto affezionato perché vedevo il giovane con la passione della disciplina. Ecco. E quando a noi un po' più anziani, primari, vediamo un giovane che ha la passione della nostra disciplina, ci fa molto piacere, certo. Ci entusiasma. Ecco, quindi non c'è stato da parte del professor Manca alcun accenno ai suoi viaggi a Parigi con lei e che le risulti nemmeno con gli uomini del suo reparto? No, lui parlava spesso della sua esperienza. Lui credo sia stato al Montsouris dal dottor Guillonot, che è stato uno dei precursori, diciamo, della laparoscopia urologica, e c'è stato credo un anno in totale, forse poco più di un anno. Quindi parlava di quell'esperienza, ma non certamente... Non so se ci sia stato nel corso del programma Erasmus, durante il corso, durante la specializzazione o dopo, questo non me lo ricordo sinceramente. Certo. Ecco. Però c'è stato e di questa sua esperienza laparoscopica al Montsouris ne parlava spesso, ecco, però quindi... di un'esperienza parigina. Esattamente, e non di un'esperienza invece di diversa natura, chissà dove e chissà come. Esatto. Non ne ha minimamente mai fatto cenno in alcun modo. Ecco, cioè, ma per è vero. È stato, la morte di Attilio è stata per tutti noi un fulmine a ciel sereno, una cosa spaventosa. Ma voi ci credevate? Ma voi ci credevate all'ipotesi del suicidio? Cioè, ci credete all'ipotesi del suicidio che questo ragazzo che non ha mai fatto uso di droghe, di alcol o di tranquillanti abbia avuto questa miscela esplosiva nel suo corpo e si sia iniettato oltretutto con una mano diversa da quella che usava, e quindi noi siamo sempre stati molto molto perplessi, solo che siamo stati molto perplessi all'ipotesi del suicidio, perché ci sembrava abbastanza inverosimile, perché è un ragazzo appassionato, con gioia di vivere, quindi onestamente che potesse suicidarsi di sua spontanea volontà. Non lo credevate, non lo credete neppure adesso, insomma. Sinceramente è difficile che possa essere un incidente, tutto è possibile, però bisogna, certo. Cioè, noi nell'anno e mezzo che abbiamo avuto Attilio con noi, nessuno di noi ha minimamente sospettato che potesse fare uso di sostanze stupefacenti. Ecco, un'altra domanda, ma è vero che dopo la morte di Attilio Manca, così come la famiglia Manca dice, così come dice il suo avvocato, il reparto si è svuotato, ci sarebbe stato un fuggi-fuggi da parte dei suoi dipendenti? Questo non è corretto. Prego, no, ma infatti io per questo glielo sto chiedendo. Questo non è corretto perché... Nel proseguo, dopo un anno e mezzo, adesso non mi ricordo i tempi, però sono stati due colleghi che si sono trasferiti, ma con motivazioni ampiamente chiare, cioè c'era un collega che faceva il pendolare da Colleferro, sì. Perché la moglie lavorava all'ospedale di Colleferro, loro come famiglia con quattro figli risiedevano a Colleferro, e sto collega faceva avanti e indietro tutti i giorni da Colleferro a Viterbo, non è esattamente una passeggiatina piacevole. Quindi non c'è stata paura. Quando si è liberato il posto a Colleferro, lui è venuto da me a dirmi: professore, a me lavorare con lei piace moltissimo, però lei capisce che per una questione familiare, di vita, eccetera, preferisco andare a Colleferro. Quindi, quindi lei smentisce. Questo ad certo. Attilio, onestamente, mi sembra veramente fantacriminologia. Fantacriminologia, ecco. Un'altra, sì. Ecco, un altro dei punti di accusa, diciamo così, della famiglia Manca è che lei, professor Antonio Rizzotto, è stato ascoltato come testimone dalla polizia e l'indomani, o comunque subito dopo, sua moglie, la professoressa Ranelletta, medico legale, avrebbe effettuato l'autopsia. Ha effettuato un'autopsia. Onestamente non riesco a vederci nessuna dietrologia dietro, perché io adesso sono passati tanti anni e non mi ricordo quando la polizia mi ha ascoltato. Quando la polizia mi ha ascoltato, io ho detto loro tutto quello che pensavo, tutto quello che sapevo. Certo. E mia moglie era il primario della medicina legale aziendale della ASL di Viterbo ed è stata incaricata dalla procura della Repubblica di Viterbo di procedere, tra l'altro credo, se non ricordo male, è associata per tutte le indagini tipo tossicologico ad un collega, un professore dell'Università di Siena. Ecco, le chiedo questa cosa, gliela chiedo perché è un dubbio che mi viene, ma il giorno prima di un'autopsia, dopo essere stato ascoltato come testimone dalla polizia, lei credo che con sua moglie avrà parlato di questa tragica morte. Che cosa vi siete detti? Io gli ho detto cerca di capire perché è morto Attilio. Certo, e a lei non risulta che questa autopsia sia stata, come dice la parte della famiglia Manca, molto molto lacunosa? Guardi, onestamente non ho la competenza professionale per rispondere a questo. Quello che so è che mia moglie è una medico legale molto brava e molto stimata nel Lazio e anche penso un po' in Italia, e credo che il tossicologo che ha proceduto alle indagini tossicologiche dell'Università di Siena sia altrettanto stimato. Bene. Quindi che la perizia possa essere lacunosa, onestamente io non ho le basi culturali per dirlo. Ecco. Certo, poi, certo. Tra l'altro non la conosco, non l'ho mai letta, cioè esprimerei un qualcosa su cui non ho competenza e che non conosco. È giusto e corretto così. Io la ringrazio immensamente, professor Rizzotto, della sua testimonianza, e con oggi concludiamo il nostro viaggio nella morte di Attilio Manca. Ripetiamo, secondo la famiglia Manca, colui il quale avrebbe operato in Francia, Bernardo Provenzano, boss di Cosa Nostra. Torneremo nei prossimi mesi su questo argomento, perché andremo a vedere come finirà la storia presso la procura di Viterbo. Grazie a regia Fabio Cantadori, in studio a Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno. We'll be right back.